e il fio dei miei fiori farà le sole al tuo. Ma questo è sicuro, dice che il rap non ti dà un futuro. Infatti sto in cucina a rompermi il culo e mica te parlo. Se t'atteggi delle cose che ne hai fatto, mica te parlo. Se dici le cose di un altro quando sta in pubblico, mica te parlo. Ragiona svelto, giusto così potresti sta qua dentro. La prima cosa che ho imparato in mezzo alla strada è portare rispetto. La prima cosa che ho fatto insieme alla mia squadra è rubarmi un frietto. La prima cosa che dico prima di iniziare è non fare il furbetto e sta attento quando te parlo, che non mi ripeto, mica sono scemo. Guardami dentro all'occhio se cerchi conferma. È tutto vero quello che dico, non fumo l'erba. Magari ogni tanto, solamente quando è prima scelta. Stai provando a fottermi, pessima scelta. È tutto vero, la tua troia c'ama sul serio. Odiano la gang, stanno odiando il nostro swag. Con mio fratello da quando ero un cazzo. Da sempre. Lei mi sta dietro solo perché sto andando up. È tutto vero, la tua troia c'ama sul serio. Odiano la gang, stanno odiando il nostro swag. Con mio fratello da quando ero un cazzo. Lei mi sta dietro solo perché sto andando up. La tua troia c'ama davvero, sto flexando bus, sto facendo euro. Sto fumando come un negro, volo in alto come un jet. Triplo 7 su ogni droga, costa smeralda, California. La tua tipa mi vuole in prova, facendo soldi su ogni cosa. E non parlarmi se non è soldi, amo la mia donna, vedo solo lei. La tua troia chiama, sa che metto muto, sa che non mi serve quel fottuto mutuo. Sa che prendo solo da fumare burro, sa che la tua troia mi vorrebbe subito. E lo sa che la faccio venire subito. Ma sul serio, odiano la gang, stanno odiando il nostro swag. Con mio fratello da quando ero un cazzo. Da sempre. Lei mi sta dietro solo perché sto andando up. È tutto vero, la tua troia c'ama sul serio. Odiano la gang, stanno odiando il nostro swag. Con mio fratello da quando ero un cazzo. Da giorno. Lei mi sta dietro solo perché sto andando up.